La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino, benvenuti alla versione di Oscar. Scaricateci sempre in podcast, non potete ascoltarci in diretta. Sono le 16:37 primi 35 secondi. I flash della giornata, beh, sicuramente fino a domani vi troverete dai giornali e telegiornali i commenti alla battuta del capo dello Stato dopo aver incontrato il pontefice. Ha parlato di clima avvelenato in Italia. Naturalmente ognuno la mette come vuole, il PDL la mette su Berlusconi, gli dice fai qualcosa, altri interpretano diversamente, ma era evidentemente a quello che si riferiva il capo dello Stato. Polemica ancora nel PD, perché il ministro Franceschini dice che il PD è per il doppio turno, tutti gli altri dicono no, veramente la pensiamo per il Mattarellum, insomma non proprio una linea di grande chiarezza. Il dato economico di oggi è il punto sul terzo trimestre in Europa della crescita. Ci vuole un certo fegato a chiamarla ripresa, visto che stiamo parlando nel terzo trimestre nell'euroarea di un più 0,1%, perché la Germania, che si aspettava lo 0,6 nel terzo trimestre, è cresciuta solo dello 0,3%, Francia e Italia stanno ancora col segno meno 0,1 tutte e due. E prima di arrivare al tema del giorno, per capirci, noi siamo il paese che con questo meno 0,1 ha perso sul 2007 9,1 punti percentuali di PIL dal 2007. Per avere un raffronto, la Germania ne ha guadagnate rispetto al 2007 2,6, gli Stati Uniti più di 5,8, e noi ne abbiamo persi 9,1. Ed è anche per questo che il tema della giornata oggi è la povertà, perché forse mi auguro molti, o almeno qualcuno di voi nei giorni passati ha visto delle pagine di pubblicità comprate, delle pagine intere sui giornali, in cui annunciavano la nascita di un nuovo soggetto. Questo nuovo soggetto si chiama Alleanza contro la Povertà. È un soggetto animato da moltissime organizzazioni innanzitutto del terzo settore, Banco Alimentare, Save the Children, Action Aid, ci sono poi organizzazioni cattoliche, ci sono le ACLI, i Focolari, il social network dei Gesuiti, ci sono sindacati, CGL, CISL, UIL, c'è Confcooperative, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome. E questa formula è nata per mettere al centro del dibattito pubblico italiano questo tema, perché noi abbiamo, sapete che ci sono diverse denominazioni nella contabilità pubblica nazionale della povertà, c'è la povertà relativa e la povertà assoluta, vi rinvio al sito dell'Istat per capirne di più. Più o meno per una famiglia di due adulti il livello della povertà relativa è intorno a poco più di 1000 euro al mese per un paniere di beni che consenta di vivere dignitosamente. Sotto quella siete nella povertà relativa, la povertà assoluta è ulteriormente più bassa, dove l'Istat colloca con una soglia diversa tra nord e sud, e più bassa al sud ovviamente, coloro che invece stentano nei bisogni primari, in un paniere primario di beni, a pagare bollette, affitto eccetera eccetera, e qui siamo intorno a 900 rotti euro per una famiglia di due adulti nel nord e intorno a 760 per due adulti nel sud. Ecco, abbiamo nel nostro paese oggi l'8% della popolazione italiana stimata nella soglia della povertà assoluta, cioè stiamo parlando di 4 milioni e 800 mila persone che stanno sotto una soglia, se sono due famiglie e sono adulti, di 900 e rotti euro al mese al nord e di 760 intorno al sud. E per questo nasce questo soggetto, l'Alleanza contro la Povertà. Abbiamo chiamato uno dei suoi ispiratori e uno degli ideatori proprio dell'Alleanza contro la Povertà e coordina il gruppo tecnico dell'Alleanza contro la Povertà, e lo abbiamo chiamato, io lo ringrazio per essere qua, per spiegarci che obiettivi ha, perché ha 8 punti concreti che adesso ci spiegherà, e per farvi riflettere intorno alla centralità di un tema rispetto al quale è vero che bisogna pensare alla crescita, ai disoccupati eccetera, ma ci sono poi anche i poveri. E con noi il professor Cristiano Gori, che insegna politica sociale alla Cattolica di Milano. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, partiamo dal primo di questi 8 obiettivi e ce li declini. Ogni tanto la interrompo, ma insomma, le priorità concrete che voi avete messo al centro di questa agenda, quali sono? Iniziamo con la prima. La prima è far finalmente partire un piano nazionale contro la povertà. Un piano nazionale che, con un percorso graduale, noi immaginiamo in 4 anni, porti l'Italia ad avere quella misura nazionale contro la povertà assoluta che hanno tutti i paesi europei dell'Europa 15 tranne appunto Italia e Grecia. Quindi questo deve essere il punto d'arrivo, che tutte le persone sotto la soglia di povertà assoluta ricevano questo intervento. Allora, iniziamo a capire una volta, se la politica adottasse questa priorità, in che cosa poi l'intervento si può sostanziare. Allora, si sostanzia in due aspetti. Da una parte un trasferimento economico, cioè lei ha detto che ci sono delle soglie di povertà assoluta che cambiano in base a dove uno abita, perché appunto il paniere necessario per sopravvivere ha un costo diverso. Questo intervento pubblico dovrebbe dare a me, se divento povero, a lei se diventa povero, la differenza tra le sue risorse economiche, tra il suo reddito e la soglia di povertà assoluta. Sì. Questa è la parte economica della misura. Ad essa si affianca una parte di servizi, perché diciamo con la parte economica lei tappa il buco. Dopodiché, per provare a ricostruirsi una vita, un percorso esistenziale più soddisfacente, ha bisogno di servizi, e non solo, l'ovvio esempio sono, se lei non ha un lavoro, i servizi per l'impiego, ma anche se lei adesso si è impoverito perché improvvisamente la mamma è diventata non autosufficiente, ha avuto i cosiddetti dei costi fortissimi, costruire un pacchetto di servizi che, dando la necessaria assistenza a sua madre, diano a lei la possibilità di cercare lavoro, di rimmaginare un futuro. Quindi i soldi per tappare il buco della sussistenza, i servizi per ricostruire un nuovo percorso. Ora, se, immagino di sì, avete fatto un calcolo rispetto a questa terribile cifra di 4.800.000 persone che sono sotto la soglia di povertà assoluta, l'entità dell'integrazione più o meno ammonterebbe a una cifra del bilancio pubblico pari a? No, allora l'entità, diciamo, per i singoli cambia, la spesa pubblica necessaria a regime è 6 miliardi di euro, pari, per capirci, allo 0,4 del, intorno allo 0,4 del PIL. Sì. Allora qua, ed è un punto fondamentale della nostra proposta, a parte che quindi questa misura c'è in tutti i paesi, costa anche un po' di più negli altri paesi, e lo 0,4 del PIL va visto rispetto a quel 45% del PIL che viene destinato alla spesa corrente, alla spesa primaria. Ecco, quindi non è una cifra enorme, però è vero che oggi arrivare tutto subito ai 6 miliardi sarebbe improponibile. Quindi voi proponete di iniziare gradualmente? Gradualmente, sì, per due motivi. Intanto, non mi scusi, diciamo cosa vuol dire gradualmente. Sì. Vuol dire che in 4 anni noi partiamo dai più poveri tra i poveri e iniziamo a dare questa misura a loro, e ogni anno, diciamo, alziamo la soglia d'accesso fino ad arrivare al quarto anno, che è il primo anno della misura regime, in cui tutte le persone in povertà assoluta possono riceverla. Da lì in avanti questo è un diritto per tutti. Ma il gradualismo ha due argomenti, questo è fondamentale secondo noi. Da una parte noi appunto abbiamo le associazioni, e comunque anche gli accademici come me coinvolti sono, diciamo, accademici applicati, non teorici, e sappiamo che nella pratica una riforma ha bisogno di anni per sedimentarsi nei territori, perché appunto i comuni, e poi quando, che dovrebbero lavorare molto col terzo settore, le associazioni possano farla loro, sviluppare i servizi come necessario, eccetera. Quindi da una parte chi conosce l'attuazione delle riforme sa che le riforme hanno bisogno di tempo. Dall'altra parte, dal punto di vista economico, noi diciamo spalmiamo l'incremento necessario delle risorse in 4 anni, cioè ogni anno incrementandosi l'utenza bisogna spendere un po' di più. Allora, io adesso ho l'obbligo di fermarla, ma solo per un minuto, perché c'è l'informazione stradale e poi torno a dare la parola. Stiamo parlando con il professor Cristiano Gori, che è uno degli ideatori dell'Alleanza contro le povertà, che qualche giorno fa ha esordito nell'agenda pubblica italiana. La versione di Oscar. Eccoci qua, 16:47 primi 20 secondi, siamo tornati in diretta, parliamo dell'Alleanza contro le povertà, e con noi uno degli ideatori, nonché coordinatore del gruppo tecnico della stessa, il professor Cristiano Gori, che insegna politica sociale alla Cattolica di Milano. Abbiamo visto quindi un'articolazione graduale nel tempo, entro 4 anni, per colmare in maniera graduale, cominciando da chi sta più sotto, il gap rispetto alla soglia fissata dall'Istat e rilevata in maniera geograficamente distinta, ma rilevata ogni anno, della povertà assoluta, che è la soglia sotto la quale l'Istat stima si hanno problemi assoluti per un minimo paniere, per vita dignitosa, nonché per fronteggiare spese obbligate, ovviamente, cioè significa casa, affitto, utenze e così via. professor Gori, prima di inoltrarci nelle altre misure, io ho l'obbligo di dirle che lei capisce che con le finanziarie che abbiamo, in cui per il cuneo fiscale, che sembrava la grande bandiera per il rilancio, alla fine lo stesso governo dice, con un atteggiamento che mi ha molto colpito e mi ha addolorato, piuttosto diamolo ai poveri come se fosse una specie di mancia. Che impressione le ha fatto, posso chiederle, quando ha letto sui giornali che il Presidente del Consiglio ha detto, beh, dite che è poca roba, datela ai poveri, perché a me ha fatto un'impressione come se non fosse una priorità, come dire, vabbè, allora se è una mancia, datela ai poveri, qui non stiamo parlando di mancia, che cosa ha pensato lei? No, però a noi piace, e a me piace vederla anche in positivo, ho anche pensato che il tema della povertà piano piano si sta facendo strada nel dibattito politico. Forse ha ragione. Però la cosa che volevo aggiungere sul suo punto è che in quest'ottica di gradualismo il primo anno nel 2014 servirebbero 900 milioni di euro. Sì. E io voglio vedere se diventasse una priorità di centrodestra, centrosinistra e grillini se non si trovano 900 milioni di euro. Sì. Cioè stiamo parlando di una cifra che è di poco superiore a un terzo dell'equivalente dell'abrogazione della seconda rata dell'IMU. Giudicate voi se siete a casa, se la seconda rata dell'IMU vale tre volte di più rispetto a una cosa come questa. Io non voglio dare giudizi, ciascuno magari ha le sue priorità. Ora, visto questo mix di compensazione monetaria e di sostegni inclusivi da dare, prima ancora di andare agli altri quattro punti, il vostro giudizio è che i comuni, cioè la rete territoriale che poi amministra i servizi essenziali e assistenziali, sarebbe in condizioni di discriminare davvero con precisione coloro che ne hanno davvero bisogno rispetto ai furbi, perché poi emergono ogni giorno i furbi in Italia che non hanno titolo, sono finti ciechi, le finte pensioni di reversibilità e così via. Ci possiamo fidare del meccanismo tecnico che gestirebbe questa roba secondo voi? Allora, questa è la domanda cruciale, perché è forse l'obiezione principale insieme alle risorse che viene fatta contro la nostra proposta. Guardate che voi poi volete aiutare i poveri, ma ci saranno un sacco di furbi. Allora noi diciamo, e quindi non si fa niente? Ovviamente non può essere questa la risposta. Secondo noi, con un percorso graduale molto ben monitorato, oggi lo sappiamo dalle esperienze migliori, lo sappiamo da tanti studi, ricerche locali, ci sono gli strumenti, ci sono una varietà di strumenti di controllo sui consumi, sui redditi, per evitare che questo accada. Quindi la sfida, ed è per questo che noi stiamo facendo un lavoro anche molto tecnico, dettagliato. Perché sa meglio di me che per mettere a posto l'ISEE ci abbiamo messo anni e anni e anni, tanto per dirne una, che è uno degli strumenti attraverso cui accertare i cosiddetti mean tested, quando i sostegni devono essere correlati alle risorse e ai redditi di un individuo o di una famiglia. Sì, però ci siamo arrivati e comunque guardi che il vice ministro Guerra l'ha messo a posto, sì. Ma l'ha fatto in maniera tecnicamente molto ben fatta. No, quindi, ma questo devo dare quindi, atto. Quindi, il nostro punto è che oggi, se si vuole, c'è una varietà di strumenti per stanare i furbi. Quindi, insomma, l'essenziale è non fermarsi di fronte all'obiezione e poi, ovviamente, essere precisi nello stanarli. Prima di arrivare ancora agli altri quattro punti, alcuni ascoltatori chiedono subito, ma che differenza c'è rispetto a quello che chiede Grillo il Movimento 5 Stelle? Allora, intanto al Movimento 5 Stelle bisogna riconoscere una cosa, se oggi di povertà si parla di più nel dibattito politico è molto merito loro, questo credo che sia giusto. Dopodiché, per usare il suo linguaggio di prima, il Movimento 5 Stelle di fatto propone una misura rivolta alla povertà relativa. Sì, non a quella assoluta. E quindi, come si può immaginare, a casa significa che stiamo parlando di un ammontare di risorse enormemente più elevato. No, ma aspetta un attimo, il punto che voglio dire è che noi diciamo che è giusto fare qualcosa per la povertà relativa, che di fatto è diseguaglianza forte, certo. Ma gli strumenti sono diversi di quelli della lotta alla povertà. Esatto. È più una questione di politiche per la famiglia, politiche per l'impresa. Esatto. Quindi noi ai Grillini diciamo, ok, bisogna fare qualcosa sulla povertà relativa, ma non sono gli stessi strumenti della lotta alla povertà dura e pura. Tradotto, un conto è la battaglia primaria per la sussistenza dignitoso, altro conto, quella altrettanto importante, ma che comunque è su una fascia superiore e di minore emergenza e priorità, che è quella comunque importante dell'inclusione, perché con la povertà relativa stiamo parlando di questa cosa qua. Senta, io la ringrazio per la traduzione, posso dire un'altra cosa su questo? Certo, hai sfiguri, qui per questo. Grazie, no, noi vorremmo, però queste due cose vuol dire sulla nostra alleanza, intanto che è aperta, perché qua c'è bisogno dell'aiuto di tutti, se sì. Le associazioni vanno su internet ci trovano e possono aderire. Su internet cos'è? C'è una pagina in cui c'è alleanza contro la povertà? Sì. Se voi digitate alleanza contro la povertà esce un sacco. Ecco. L'altra cosa è che noi, per noi questo vuole essere un lavoro di ottimismo, cioè tutte queste associazioni che pure hanno tanti problemi nel territorio, hanno detto basta solo lamentarsi, proviamo a portare, a fare proposte e sensibilizzazione, a portare il nostro tema nella, nell'agenda politica. Quindi, come dire, questo è un lavoro di, dietro questa dell'alleanza. È un lavoro di mobilitazione sociale per le priorità. E io in questo spirito ritengo che se avessimo tutto io avrei dato un'ora. Ma detto questo, non è che poi il governo ci fa fessi, perdoni l'espressione un po' colorita, e dice benissimo, no, facciamo questo e però azzera il fondo per le politiche sociali e per un'autosufficienza. In questi anni abbiamo assistito a cose di questo genere. Sì, questo è il vero rischio oggi, è la guerra tra poveri. O tra poveri, tra quasi poveri. Quindi noi mettiamo, questo è un punto fondamentale, noi mettiamo tra le nostre proposte no alla guerra tra poveri come messaggio, cioè non è che io devo finanziare la povertà togliendo qualcosa alle persone con disabilità, questa è un'altra politica. Tenuto conto che stamattina, finalmente dico io perché era mesi che lo scrivevo, però Mastrapasqua mi diceva che sbagliavo, per il presidente dell'INPS Mastrapasqua ha dovuto levare un grande segnale d'allarme, perché grazie alla fusione delle gestioni pubbliche della pensione, sappiamo che l'INPS si occupa anche di assistenza, ma il problema è che dopo i 9 miliardi persi nel bilancio l'anno scorso siamo almeno di fronte ad altri 3 anni, questo compreso, di perdere tra i 9 e i 10 miliardi, e quindi come si vede poi c'è un problema generale da questo punto di vista di sostenibilità. La cosa che le volevo chiedere infine, il terzo settore cosa può fare direttamente senza Stato? Il terzo settore senza Stato può erogare molti, può dare molti servizi nel territorio, però i diritti di cittadinanza e i relativi finanziamenti li può garantire solo lo Stato. Avete in mente un calendario già di incontri? Qualcuno vi ha risposto? Sì, Giovannini e Guerra, con loro siamo già in contatto, faremo pressione su di loro e se necessario pensiamo di andare avanti nei mesi e negli anni. Professor Cristiano Gori, a lei e a tutti coloro che si danno da fare per la lotta contro la povertà e l'alleanza contro la povertà, noi siamo qua, il mio numero lo conoscete, tornate, perché è necessario che la gente sappia e sappia che qualcuno si batte anche per chi sta peggio, tra noi tutti. Grazie professore, continuate su Radio 24, con me appuntamento a domani.